Avete davvero intenzione di rappresentare St. Oaks in Parlamento? Disse Lucy a Steven con gli occhi accesi di una gioiosa fierezza che le faceva dimenticare le argomentazioni in favore dell'anglicanismo. Senza dubbio, non appena lo spirito civico e la gotta indurranno il vecchio Mr. Liburn a ritirarsi. La cosa sta a cuore a mio padre, e doti come le mie, voi sapete. E qui Steven si drizzò e si passò sui capelli la grande mano bianca, con giocosa ammirazione verso se stesso. Doti come le mie comportano grandi responsabilità. Non siete di questo avviso, Miss Tulliver? Sì, disse Maggie sorridendo, ma senza alzare gli occhi. Una simile facilità di parola e padronanza di se stesso non debbono andare tutte disperse in conversazioni private. Ah, vedo che siete penetrante, disse Steven. Voi avete già capito che io sono chiacchiere e sfacciato. Invece le persone superficiali non riescono mai ad accorgersene, grazie alla mia abilità, credo. Quando parlo di me stesso non mi guarda, egli pensò, mentre le sue ascoltatrici ridevano. Devo tentare altri argomenti. Aveva intenzione Lucy di intervenire la settimana prossima alle votazioni del Circolo del Libro? Fu la domanda seguente, a cui tenne dietro la raccomandazione di dare la preferenza alla vita di Cowper del Southie, a meno che ella avesse voglia di fare la filosofessa e di strabiliare le signore di St. Oaks votando per uno dei trattati di Bridgewater. Naturalmente, Lucy volle sapere che cosa fossero quei libri allarmanti, e siccome è sempre piacevole elevare lo spirito delle signore, parlando con disinvoltura di materie di cui esse non sanno nulla, Steven si mostrò brillantissimo nel rendere conto del trattato di Buckland, che egli aveva letto proprio allora. Ne fu compensato al vedere che Maggie lasciò cadere il proprio lavoro, facendosi a poco così assorta che se ne stava lì seduta a guardarlo, china in avanti, con le braccia conserte, in un completo oblio di se stessa, come se lui fosse stato il più tabaccoso dei vecchi professori e lei un allievo di primo pelo. Egli era così affascinato da quello sguardo chiaro e ampio che alla fine si dimenticò di distogliere gli occhi per volgergli ogni tanto verso Lucy. Ma lei, la cara fanciulla, era tutta presa dalla gioia che Steven dimostrasse a Maggie quanto era colto e che si avrebbero certamente finito col diventare buoni amici. «Vi porterò il libro, Miss Tulliver, volete?» disse Steven quando sentì che la corrente dei suoi ricordi cominciava a scorrere un po' più magra. Ci sono tante illustrazioni che vi piacerà di vedere. Oh, grazie, disse Maggie, arrossendo quel diretto richiamo che la faceva tornare in se stessa e riprendendo il proprio lavoro. No, no, intervenne Lucy, bisogna che io vi proibisca di sprofondare Maggie nei libri, non riuscirei più a distoglierla. E invece desidero che passi delle belle giornate d'ozio, pensando solo ad andare in barca, a chiacchierare, a far passeggiate a cavallo e in carrozza. Sono queste le vacanze di cui ha bisogno. A proposito, disse Steven guardando l'orologio, non potremmo adesso andare a fare una remata sul fiume? La marea ci aiuterà a risalire fino a Tofton, donde potremo tornare a piedi. La proposta era incantevole per Maggie, che da anni non era più stata sul fiume. Uscita che la fu per andare a mettersi il cappello, Lucy si trattenne per dare un ordine alla cameriera e colse l'occasione per dire a Steven che Maggie non era contraria a vedere Philip, sicché era peccato avergli mandato quel biglietto 2 giorni prima, ma all'indomani gliene avrebbe scritto un altro per invitarlo. Andrò io domani a persuaderlo, disse Steven, e lo porterò qui con me nel pomeriggio, volete? Le mie sorelle verranno a farvi una visita quando le avvertirò che c'è qui vostra cugina ed io lascerò loro il campo libero durante la mattinata. Oh sì, conducete Philip, disse Lucy, e avrete simpatia per Maggie, è vero? Soggiunse in tono di preghiera. Non è una cara e bella creatura? Troppo alta, disse Steven abbassando gli occhi verso di lei. È un po' troppo focosa. Non è il mio tipo di donna, ecco. Gli uomini, voi lo sapete, sono proclivi a fare alle donne di queste imprudenti confidenze sulla sfavorevole opinione che si hanno delle graziose loro consorelle. Così è che molte donne hanno il vantaggio di conoscere la segreta antipatia nutrita verso di loro da uomini che hanno professato, rinnegandosi, un ardente amore per loro. E nulla potrebbe più tipicamente definire il carattere di Lucy che la sua credenza in ciò che Steven le diceva, accompagnata dalla volontà che Maggie non dovesse saperne nulla. Ma voi, che potete guidarvi con una logica più profonda che quella delle parole, avrete già preveduto, come diretta conseguenza di quella sfavorevole opinione di Steven, che questi, scendendo verso la rimessa delle barche e aiutato da una fervida immaginazione, calcolava che Maggie gli avrebbe dovuto sporgere almeno 2 volte la mano durante la piacevole gita in barca da lui progettata. Senza contare che un signore desideroso di essere guardato dalle donne si trova in vantaggiosa posizione allorquando le porta in barca. Ma allora si era dunque innamorato a prima vista di quella sorprendente figliola di Mrs. Tulliver? No, di certo, simili passioni non si sono mai viste nella vita reale, senza dire che gli era già innamorato e mezzo fidanzato con la più cara personcina del mondo, e non era uomo da rendersi in alcun modo ridicolo. Ma a 25 anni uno non ha dei pezzi di marmo sulla punta delle dita per essere insensibile al contatto con una graziosa figliola. Ammirare la bellezza e goderne la vista era cosa perfettamente naturale e senza pericoli, perlomeno in circostanze come quelle. E poi c'era qualcosa di veramente interessante in quella ragazza, con la sua povertà e le sue pene. Ed era piacevole di vedere l'amicizia tra le due cugine. In generale Steven lo riconosceva, egli non era entusiasta delle donne che avessero delle singolarità di carattere, ma qui la singolarità pareva veramente di una specie superiore. E premesso che, diamine, non si è obbligati a sposare donne simili, è certo che esse arrecano varietà nei rapporti sociali. Durante il primo quarto d'ora Maggie non appagò le speranze che Steven nutriva di essere guardato. I suoi occhi erano troppo pieni della vista di quelle antiche rive a lei così note. Si sentiva sola, lontana da Philip, l'unica persona che l'avesse mai amata con devozione, come ella sempre aveva desiderato di essere amata. Ma ben presto fu attratta dal movimento ritmico dei remi e pensò che le sarebbe piaciuto di imparare a remare. Risvegliata così dalle sue fantasticherie, chiese se poteva prendere un remo. Evidentemente aveva molto da imparare e cominciò a sentirsi punta nella vanità. Il movimento, le soffuse e le gote di un caldo sangue la dispose a prendere la sua lezione con umore gaio. Non sarò contenta finché non saprò tenere i due remi per portare voi e Lucy, disse, mentre scendeva dalla barca e aveva un aspetto molto animato. Maggie, lo sappiamo, era facile distrarsi da ciò che stava facendo e aveva scelto un momento intempestivo per quel commento. Le scivolò il piede, ma fortunatamente Mr. Stephen Guest la teneva per mano e la sorresse con una stretta vigorosa. «Non vi siete fatta male, spero», egli disse, chinandosi a guardarla in volto con ansietà. «Molto piacevole ricevere delle così gentili e graziose attenzioni». Da una persona più alta e più forte di lei. Prima d'allora Maggie non aveva mai provato una simile sensazione. Rincasati trovarono zio e zia Pallet seduti con Mrs. Tulliver nel salotto e Steven se ne andò via in fretta chiedendo di poter tornare alla sera. E fate il piacere di portare con voi quel volume di Purcell che vi siete preso, disse Lucy. Desidero che Maggie senta i pezzi che cantate meglio. Zia Pallet, nella certezza che Maggie sarebbe stata invitata ad andare fuori con Lucy, probabilmente alla casa del parco, fu molto contrariata dal tristo arnese degli abiti di lei, che agli occhi della buona società di St. Ogg's avrebbero costituito un disonore per il quale si richiedeva pronto ed energico rimedio. E la rassegna di ciò, che fra tutte le cose superflue del guardaroba di Mrs. Pallet sarebbe stato più adatto allo scopo, fu un argomento in cui tanto Lucy quanto Mrs. Tulliver si sprofondarono con parecchio zelo. Maggie doveva veramente avere al più presto una veste da sera. La sua statura era presso a poco quella di zia Pallet, ma di spalle è molto più larga di me e questo è un vero guaio, disse Mrs. Pallet. Altrimenti potrebbe portare senza il minimo ritocco la mia magnifica veste di broccato nero. E le sue braccia poi passano tutte le misure, soggiunse con tristezza, alzando il grande braccio rotondo di Maggie. Non potrà mai entrare nelle mie maniche. Oh, non ci pensate, zia. Mandateci la veste, disse Lucy. Non vorrei che Maggie portasse maniche lunghe. E poi ho una quantità di pizzi neri per fare la guarnizione. Le sue braccia faranno una bellissima figura. Le braccia di Maggie sono molto ben fatte, disse Mrs. Tulliver, come erano le mie. La differenza è che le mie non sono mai state brune. Vorrei che avesse anche lei la carnagione della nostra famiglia. Oh, questo non conta, zietta, disse Lucy, accarezzando le spalle di zia Tulliver. Voi non vi intendete di queste cose. Un pittore troverebbe molto bello il colorito di Maggie. Sarà, mia cara, disse umilmente Mrs. Tulliver. Tu ne sai più di me. Però, quando io ero giovane, una carnagione bruna non faceva buona impressione tra la gente per bene. No, disse zio Pallet, che si interessava vivamente alla conversazione delle signore mentre succhiava le sue pasticche. Però c'era una canzone su una fanciulla bruna come noce. Credo che fosse Kate. Kate la pazza, ma non riesco a ricordarmela bene. Oh, via via, disse Maggie ridendo, ma con impazienza. Credo che finirò col non poterne più di questa mia carnagione bruna, se si deve sempre continuare a discorrerne tanto. 2. Momenti di confidenza. Quella sera, quando Maggie salì in camera sua, era chiaro che aveva poca voglia di spogliarsi. Deposta la candela sulla prima tavola che trovò, si mise ad andare su e giù per la stanza che era grande, con un passo fermo, regolare, piuttosto rapido, il che mostrava come quell'esercizio fosse lo sfogo istintivo di una forte eccitazione. Occhi e gote le luccicavano, quasi come per febbre. Il capo buttato all'indietro, ella si stringeva le mani con le palme verso l'esterno e con quella tensione delle braccia che di solito accompagna la preoccupazione mentale. Le era successo qualcosa di speciale? Nulla che dal vostro punto di vista possa parere meno che insignificante. Aveva ascoltato della bella musica, cantata da una bella voce di basso, ma l'esecuzione era stata quella di un dilettante di provincia, che alle vostre orecchie di critici avrebbe lasciato parecchio a desiderare. E poi aveva la sensazione di essere stata molto guardata, e in modo piuttosto furtivo, di sotto un paio di sopracciglia orizzontali e ben disegnati, con occhiate che parevano in qualche modo aver assunto la vibrante influenza della voce. Simili cose non avrebbero avuto effetto visibile su una signorina di compita educazione, di mente perfettamente equilibrata e dotata di tutte le superiorità della ricchezza, della cultura e della società raffinata. Ma se Maggie fosse stata quella tal signorina, voi forse non sapreste nulla di lei. La sua vita avrebbe presentato così poche vicende che a malapena si sarebbe potuto scriverla, perché le donne più felici, come le nazioni più felici, non hanno storia. Sul temperamento così represso e desideroso della povera Maggie era uscita allora da un collegio di terz'ordine, gazzarra di rumori e meschino giro di occupazioni. Queste cause apparentemente banali avevano l'effetto di suscitare e scatenare l'immaginazione in un modo che riusciva a lei medesima misterioso. Non già che pensasse esplicitamente a Mr. Stephen Guest, ovvero tornasse sugli indizi dell'ammirazione con cui egli l'aveva guardata, sentiva piuttosto la presenza non lontana di un mondo di amore, di bellezza e di delizia, composto di vaghe e mescolate immagini di tutte le poesie e romanzi che aveva letti o intessuti nelle sue sognanti fantasticherie. Una o due volte riandò il tempo in cui aveva vagheggiato le privazioni e creduto che tutti i desideri e tutte le impazienze fossero domati, ma quello stato d'animo pareva irrevocabilmente perduto. Ed ella rifuggiva dal ricordarlo. Nessuna preghiera, nessuno sfogo potevano più renderle quella pace negativa. La lotta della sua vita pareva non dovesse decidersi per una così breve e facile strada, come era la piena rinunzia proprio sulle soglie della giovinezza. Ancora vibrava in lei la musica, musica di Purcell, con la sua selvaggia passione e fantasia, ed ella non poteva soffermarsi sulla commemorazione di quel passato vuoto e solitario. Era nel suo più lucente ed aereo mondo, quando un piccolo colpo si fece udire alla porta. Sua cugina, naturalmente, che entrò avvolta in un'ampia vestaglia bianca. «Come, Maggie, discolaccia, ancora non hai cominciato a spogliarti?» fece Lucy stupita. «Avevo promesso di non venire a parlarti perché pensavo che dovessi essere stanca, ma eccoti, che sembri pronta a vestirti per un ballo. Via, via, metti la vestaglia e sciogliti i capelli». «Bene, ma nemmeno tu sei molto avanti», replicò Maggie prendendo in fretta la sua vestaglia di cotone rosa e guardando i capelli castani di Lucy buttati all'indietro, in riccioli disordinati. Oh, a me rimane poco da fare. Mi siederò a parlarti finché non ti vedrò proprio sul punto di andare a letto. Mentre Maggie, fermatasi, lasciava cadere i lunghi capelli bruni sulla vestaglia rosa, Lucy si sedette presso la toeletta, guardandola con occhi affettuosi e col capo lievemente inclinato come un grazioso cane spagnolo. Se proprio non vi riesce di credere che delle signorine possano abbandonarsi a parlare confidenzialmente in una situazione del genere, vi pregherò di ricordarvi che la vita umana presenta molti casi eccezionali. Stasera l'hai veramente goduta la musica, non è vero, Maggie? Oh sì, ed è per questo che non mi riesce di avere sonno. Credo che non proverai più altri desideri terreni se potessi sempre sentire tanta musica. Mi pare che mi infonda forza nelle membra e idee nel cervello. La vita mi sembra passar via senza sforzo quando la musica mi colma. Negli altri momenti si ha la sensazione di portare un fardello. E Steven ha una splendida voce, no? Vedi, forse né tu né io siamo buoni giudici, disse Maggie ridendo mentre si sedeva e buttava dietro le spalle i lunghi capelli. Tu non sei imparziale e io trovo magnifico qualunque organetto. Ma dimmi ora quello che pensi di lui, dimmelo esattamente, il bene e il male. Oh, io credo che dovresti renderlo un po' più umile. Un innamorato non dovrebbe essere così disinvolto e sicuro di sé. Più tremante dovrebbe essere. Oh, è assurdo, Maggie. Come se qualcuno potesse tremare davanti a me. Tu lo trovi presuntuoso, capisco bene, ma non ti è antipatico, vero? Antipatico? No. Forse che ho l'abitudine di vedere tanta gente interessante da potermi permettere di fare la schizzinosa. E poi come potrebbe dispiacermi una persona che ha promesso di farti felice, mia cara piccola? E Maggie pizzicò la fossetta sul mento di Lucy. Domani sera ne avremo anche di più della musica, disse Lucy come se già ne pregustasse la gioia, perché Steven condurrà con sé Philip Wakem. Oh, Lucy, io non posso vederlo, disse Maggie impallidendo. O almeno non posso senza il permesso di Tom. Tom? E dunque così tiranno? Disse Lucy sorpresa. Me ne prenderò io la responsabilità allora, gli dirai che è stata colpa mia. Ma cara, disse Maggie esitando, ho promesso a Tom molto solennemente, prima della morte di mio padre, gli ho promesso che non avrei mai parlato a Philip senza che glielo sapesse e me lo consentisse. E ho molta paura di entrare in questo argomento con Tom, paura di tornare a litigare con lui. Ma non ho mai sentito una così strana e irragionevole cosa. Che male può aver fatto il povero Philip? Perché non ne potrei parlare io con Tom? Oh no, no, ti prego di no, cara, disse Maggie. Domani andrò io stessa da lui e gli dirò che tu desideri che venga Philip. Già prima d'ora avevo pensato di chiedergli che mi sciogliesse dalla promessa, ma mi era mancato il coraggio di decidermi. Tacquero per alcuni momenti, poi Lucy disse: Maggie, tu hai dei segreti per me, mentre io per te non ne ho nessuno. Maggie rimase assorta, senza guardare Lucy. Poi si volse verso di lei e le disse: Avrei caro di raccontarti di Philip, ma Lucy, tu non devi mai lasciar capire a nessuno che sai queste cose, men che a tutti, a Philip o a Mr. Steven Guest. Il racconto durò a lungo, perché Maggie non aveva mai conosciuto prima d'allora il sollievo di un simile sfogo. Della propria vita intima non aveva mai detto nulla a Lucy. E il dolce viso, chino verso di lei, con tanta simpatia, e la piccola mano che premeva le sue, la incoraggiavano a parlare. Su due soli punti fu meno espansiva. Non tradì completamente quello che ancora esacerbava il suo spirito come un più grave torto a Tom. Gli insulti di cui egli aveva coperto Philip. Per quanto il ricordo la tormentasse ancora, non poteva soffrire che altri lo sapesse per un riguardo tanto a Tom quanto a Philip. Né le sarebbe bastato l'animo di raccontare a Lucy l'ultima scenata tra suo padre e Wakem, con Quantunque da allora in poi ella avesse sempre sentito come proprio, quella scenata costituiva una nuova barriera tra lei e Philip. Soltanto disse che si rendeva conto che ormai Tom avesse perfettamente ragione nel considerare fuori di luogo qualunque possibilità di amore e di matrimonio tra lei e Philip per via dei rapporti fra le due famiglie. Certamente il padre di Philip non avrebbe mai dato il consenso. Ecco, Lucy, hai sentito la mia storia, disse Maggie sorridendo con le lacrime agli occhi. Vedi che io sono stata in altri tempi adorata. Ah, ora capisco com'è che conosci Shakespeare e quante altre cose e hai tanto imparato dopo lasciato il collegio, che finora m'era sempre parso una magia, una parte di tutto il tuo mistero, disse Lucy. Rifletté un poco ad occhi bassi e poi soggiunse, guardando Maggie. È molto bello che tu ami Philip. Non avrei mai creduto che gli potesse toccare una simile felicità e secondo me non dovresti rinunciare a lui. Ora ci sono degli ostacoli, ma col tempo possono essere rimossi. Maggie scosse il capo. Sì, insisté Lucy. Non posso fare a meno di sperarlo. C'è in questo qualcosa di romantico, di straordinario, proprio come deve essere tutto ciò che succede a te. E Philip ti adorerà come uno sposo di fiaba. Io mi tormenterò il cervellino per trovare qualche sistema per mettere tutti sulla via della ragione, in modo che tu possa sposare Philip quando io sposerò qualcun altro. Non sarebbe una bella fine di tutti i guai della mia povera Maggie? Maggie tentò di sorridere, ma rabbrividì, come sentisse un freddo improvviso. Ah, cara, tu hai freddo, disse Lucy. Devi metterti a letto e io pure, non oso pensare che ora può essere. Si baciarono e Lucy uscì messa a parte di un segreto che doveva esercitare una profonda influenza sulle sue impressioni a venire. Maggie era stata completamente sincera. Col suo carattere non le era mai riuscito facile di essere altrimenti, ma le confidenze sono talvolta ingannevoli, anche quando sono sincere. 4. Fratello e sorella. Alla pensione di Tom, Maggie fu obbligata di andarci verso la metà della giornata, nell'ora in cui egli doveva rientrare per la colazione, che altrimenti non l'avrebbe trovato in casa. Egli non abitava presso gente del tutto estranea. Circa 8 mesi prima, il nostro amico Bob Jakin, col tacito consenso di Mumps, non soltanto aveva preso moglie, ma anche preso in affitto una di quelle strane vecchie case attraversate da passaggi a sorpresa verso le rive del fiume. Così, osservava, sua moglie e sua madre si sarebbero potute salvare dalle tentazioni dell'ozio affittando due barche di piacere nelle quali egli aveva investito parte dei propri risparmi, nonché tenendo un pensionante per il salotto e la camera da letto che avevano in più. In simili circostanze, quale miglior cosa nell'interesse di tutte le parti, prescindendo anche da considerazioni di salute, che il prendere come pensionante Mr. Tom? Fu la moglie di Bob ad aprire la porta a Maggie. Era una donna piccola, con la fisionomia generica di una bambola olandese. In paragone con la mamma di Bob, che riempiva tutto il corridoio dietro di lei, pareva molto simile a una di quelle figure umane che l'artista trova opportuno di collocare accanto a una statua colossale per mostrarne le proporzioni. La piccola donna, appena ebbe aperta la porta, fece una riverenza e alzò gli occhi verso Maggie con un tal quale rispetto, ma alle parole «È in casa mio fratello», che Maggie pronunciò sorridendo, si voltò con improvvisa animazione e disse madre, madre, avvertite Bob? C'è Miss Maggie! Entrate, Miss, entrate, per favore!» Continuò aprendo una porta laterale e sforzandosi di schiacciare la propria persona contro la parete per fare maggior spazio alla visitatrice. Tristi ricordi si affollarono in Maggie quando ella entrò nel piccolo salotto che era ormai tutto quel che il povero Tom poteva chiamar casa sua, parola che un tempo, tanti anni prima, aveva significato per entrambi il medesimo insieme di cari oggetti familiari. Ma non tutto le era straniero in quella nuova stanza. La prima cosa su cui caddero i suoi occhi fu la grande vecchia Bibbia, e quella vista non era la più adatta a disperdere le antiche memorie. Rimase lì, senza parlare. Se volete accomodarvi a sedere, Miss, disse Mrs. Jacking, strofinando col suo grembiale una seggiola perfettamente pulita. E poi sollevò un lembo di quell'indumento, portandoselo al viso con aria imbarazzata, mentre guardava Maggie con meraviglia. «Bob è in casa, dunque?» disse Maggie, riprendendosi e sorridendo alla timida bambola olandese. «Oh, sì, miss, ma credo che stia lavandosi e vestendosi. Vado a vedere», disse Mrs. Jacking, scomparendo. Ma tornò subito tenendosi con nuovo coraggio a qualche passo dal marito, il quale mostrava sulla soglia della porta i suoi brillanti occhi turchini e i suoi denti bianchi e regolari, mentre si inchinava rispettosamente. «Come state, Bob?» disse Maggie andandogli incontro e porgendogli la mano. «Volevo sempre fare una visita a vostra moglie e ci verrò appositamente un altro giorno, se lei me lo permette, ma oggi sono dovuta venire per parlare con mio fratello». «Oh, sarà qua tra poco, miss. Sta cavandosela a pulito, Mr. Tom. Sarà uno dei primi personaggi del paese, vedrete». «Bene, Bob. Sono sicura che qualunque cosa diventi lo dovrà a voi. Me lo diceva proprio lui, ancora l'altra sera, che mi parlava di voi». «Miss, lui la pensa così, ma quando una cosa la dice lui, io ci credo di più, perché la sua lingua non passa mai il segno. Non fa come la mia. Dio buono, io valgo meno che una bottiglia stappata, io. Una volta che ho cominciato non so fermarmi. Ma voi avete una cera straordinaria, Miss. Mi fa piacere di vedervi. Che ne dici tu adesso, Prissy?» E Bob si volse alla moglie. «Non era tutto vero quel che ti dicevo? E sì che ci sono pochi articoli di cui io non esageri il valore quando mi metto a parlarne». Il piccolo naso di Mrs. Jacking parve seguire l'esempio dei suoi occhi, volgendosi rispettoso verso Maggie. Ma stavolta ella riuscì a sorridere, a fare una riverenza e poi a dire: «Oh, non c'era niente che io desiderassi di più che vedervi, miss, perché la lingua di mio marito, dal principio che ci parlavamo, ha sempre continuato a battere su di voi che pareva che gli avesse perso un po' la testa». «Bene, bene», disse Bob con un'aria alquanto buffa. «Va a dare una guardata alla colazione, altrimenti Mr. Tom avrà da aspettare». «Spero che Mumps abbia fatto amicizia con Mrs. Jacking, Bob», disse Maggie sorridendo. «Dicevate sempre, me ne ricordo, che lui non avrebbe avuto piacere che vi sposaste». «Miss», disse Bob ridacchiando, «quando ha visto che lei era tanto piccina si era segnato. Fa mostra quasi di non vederla, o meglio, di pensare che non abbia ancora finito la crescenza». «Ma quanto a Mr. Tom, Miss», disse Bob parlando più basso e facendosi serio, «è chiuso come una cassaforte. Ma io sono un tipo furbo e quando ho messo giù il mio fagotto e non faccio niente, ho più cervello di quanto mi fa bisogno e sono costretto ad occuparmi di quel che capita dentro agli altri. E mi fa male che Mr. Tom se ne stia lì, cupo, alla sera, a guardare il fuoco, con la fronte corrugata. Dovrebbe essere un tantino più allegro, un bel giovanotto come lui», dice mia moglie, «che qualche volta, quando lei entra in camera sua e lui non se ne accorge nemmeno, è lì seduto a guardare il fuoco, accigliato come se stesse sorvegliando della gente che lavori là dentro». «Pensa tanto agli affari», disse Maggie. Disse Bob parlando più basso, «ma non credete che ci sia dell'altro, miss? È chiuso, Mr. Tom, ma io sono un tipo furbo, sono, e quando è stato lo scorso Natale mi è parso ad aver trovato il suo punto debole. Si trattava di un piccolo cane spagnolo nero di una razza rara. E lui ha messo tutto sotto sopra per trovarne uno. Ma dopo da allora qualche cosa deve essergli capitato che si è rimesso a vivere a denti stretti più che mai, per quanto le cose gli vadano bene. E io volevo parlarne con voi, miss, perché pensavo che qualcosa avreste potuto cavargliene, ora che siete qui. Sta un po' troppo solo e non va abbastanza in compagnia. Temo d'aver ben poco potere su di lui, Bob», disse Maggie, assai commossa dall'insinuazione di Bob. Che Tom potesse avere le sue pene d'amore era per lei un'idea del tutto nuova. Povero figliuolo, e per di più innamorato di Lucy. Ma forse era soltanto una fantasia del troppo sollecito cervello di Bob. Il dono di quel cane non significava altro che affetto di cugino e gratitudine. Ma Bob aveva già detto: «Ecco, Mr. Tom», e la porta del cancello si stava aprendo. «Non c'è tempo da perdere, Tom», disse Maggie, appena Bob ebbe lasciato la camera. «Devo dirti subito perché sono venuta, altrimenti ti impedirò di fare colazione». Tom era in piedi e dava le spalle al camino, e Maggie stava seduta controluce. Avendo notato che era tremante, egli ebbe un presentimento della cosa di cui stava per parlargli, presentimento che rese più fredda e più dura la sua voce quando egli disse: «Cosa c'è?». Un tale tono destò in Maggie uno spirito di resistenza, sicché ella presentò la sua domanda in una forma affatto differente da quella che si era proposta. Si alzò dalla seggiola e, guardando diritto verso Tom, disse: «Desidero che tu mi sciolga dalla mia promessa riguardo a Philip Wakem. O piuttosto, t'avevo promesso di non vederlo senza dirtelo. Sono venuta a dirti che desidero di vederlo». «Benissimo», disse Tom ancora più freddamente. Se non che Maggie aveva finito appena di parlare in quella maniera gelida e provocante che già se ne pentiva, presa dal timore di alienarsi l'animo del fratello. «Oh, non per me, caro Tom, non ti inquietare. Io non ti avrei mai chiesto una cosa simile, se non che Philip, tu lo sai, è amico di Lucy, la quale desidera che gli vada da lei. L'ha invitato per questa sera e io le ho detto che non potevo incontrarlo senza avvertirtene. Lo vedrò soltanto in presenza di altra gente, non ci sarà più nulla di segreto tra di noi». Tom torse lo sguardo da Maggie e per qualche istante corrugò più profondamente la fronte. Poi, volgendosi a lei, disse lentamente ed energicamente: «Tu sai quali sono i miei sentimenti a riguardo, Maggie. Non è necessario che io ti ripeta tutto ciò che ti ho detto un anno fa. Quando il babbo era vivo, io mi sentivo obbligato a esercitare il massimo potere su di te, per impedirti di disonorare lui e te stessa e tutti noi. Ma ora devo lasciarti libera della tua scelta. Tu vuoi essere indipendente, me l'hai detto dopo la morte del babbo. La mia opinione non è mutata. Se tu pensi ancora all'amore di Philip Wakem, devi rinunciare a me». «Oh, questo non lo desidero, caro Tom, perlomeno allo stato attuale delle cose. Capisco che non ne nascerebbe che infelicità. Ma ben presto io partirò per un altro impiego e avrei caro di tornare a vederlo come amico durante il tempo che passerò qui. Lucy lo desidera». La severità del viso di Tom si spianò un poco. «Non mi importa se lo vedrai qualche volta in casa dello zio, non voglio che tu faccia dello scalpore sulla cosa, ma in te, Maggie, non ho fiducia. Tu ti lasceresti trascinare a qualunque atto». Era una crudele parola. Le labbra di Maggie cominciarono a tremare. «Perché dici così, Tom? È molto duro da parte tua. Non ho sopportato ogni cosa meglio che potevo. E ho mantenuto la parola che t'avevo data quando la mia vita non è stata felice, non più che la tua». Fu, malgrado suo, infantile. Le lacrime stavano per sgorgare. Quando non era in collera, Maggie subiva l'influenza di una parola gentile o fredda, come una margherita, quella del sole o della nuvola. Sempre il bisogno di essere amata l'avrebbe vinta, come un tempo nel solaio intarlato dai vermi. La bontà del fratello rispose subito a questo richiamo, ma non poteva mostrarsi che nei modi di Tom. Egli pose gentilmente la mano sul braccio di lei e disse, nel tono di un benigno pedagogo: «Ora ascoltami, Maggie. Ti dirò quali sono i miei intendimenti. Tu sei sempre eccessiva, non hai criterio né dominio su te stessa. E tuttavia credi di saperne più degli altri e non ti sottometti ad essere guidata. Sai che io non volevo che ti prendessi un impiego. Zia Pallet era disposto a offrirti una buona casa, dove saresti potuta vivere decorosamente tra i parenti, finché io avrei procurata una casa a te e alla mamma. E ancora quello che io vorrei tu facessi. Desideravo che mia sorella fosse una signora, e mi sarei sempre preso cura di te, come aveva raccomandato il babbo, fino al giorno in cui tu avessi trovato un buon marito. Ma le tue idee non vanno mai d'accordo con le mie e tu non vuoi cedere. Potresti tuttavia avere abbastanza buon senso per comprendere che un fratello che vive nel mondo, a contatto con gli altri uomini, necessariamente capisce quello che è giusto e rispettabile per sua sorella, meglio di quanto possa farlo ella stessa. Tu non mi credi affettuoso, ma il mio affetto non può essere guidato se non da quello che io credo il tuo bene». «Sì, lo so, caro Tom», disse Maggie ancora un po' singhiozzando, ma sforzandosi di trattenere le lacrime. «So che tu faresti molto per me, so quanto lavori senza risparmio di te stesso, e te ne sono riconoscente, ma in verità tu non puoi giudicare perfettamente nei miei riguardi. I nostri caratteri sono molto dissimili. Tu non sai quanto le cose mi tocchino diversamente da come toccano te. Oh, sì, lo so troppo bene. So come debbono essere diversi i tuoi sentimenti su tutte le cose che concernono la nostra famiglia e la tua dignità di giovane donna, se hai potuto pensare di accettare in segreto l'amicizia di Philip Wakem. Quando anche ciò non mi ripugnasse sotto tutti gli altri rapporti, non vorrei mai che il nome di mia sorella andasse associato, e non fosse che per un momento, a quello di un giovane il cui padre deve odiare perfino il pensiero di tutti noi, e ti disprezzerebbe. Con chiunque altri che te, sarei perfettamente sicuro che quello a cui tu hai assistito un momento prima della morte del babbo ti difenderebbe per sempre dal pensare ancora all'amore di Philip Wakem. Ma con te non posso esserne certo. Con te non sono mai certo di nulla. A volte tu ti compiaci di una specie di falsa rinuncia, mentre altre volte non hai neppure la fermezza di resistere a ciò che sai essere un male. C'era, nelle parole di Tom, una verità terribilmente tagliente, quella dura scorza di verità che gli spiriti senza immaginazione e senza simpatia riescono a vedere. Maggie fremeva sempre sotto il giudizio di Tom, si ribellava e al tempo stesso si sentiva umiliata. Le pareva che egli tenesse davanti a lei uno specchio per mostrarle la sua follia e la sua debolezza, quasi come una voce profetica che le prediceva le sue future cadute. E tuttavia, in quel momento stesso, ella di rimando giudicava lui. Si diceva internamente che egli era gretto e ingiusto, incapace di sentire quei bisogni spirituali donde spesso si originano gli errori e le assurdità che agli occhi di lui facevano della sua vita un enigma indecifrabile. Non gli rispose direttamente. Aveva il cuore gonfio e si sedette col braccio appoggiato al tavolo. A nulla serviva, a nulla, il tentare di far sentire a Tom come gli fosse vicina. Sempre egli la respingeva. Il sentimento che la provava per quelle sue parole era complicato dall'accenno all'ultima scena tra il babbo e Wakem. Alla fine, questa dolorosa, solenne memoria superò l'immediato rancore. No, lei non pensava a quelle cose con frivola indifferenza, né Tom doveva accusarla. Lo guardò con gli occhi gravi e pensosi e gli disse: «Per quanto ti parli, Tom, non riuscirò a farmi meglio giudicare da te. Ma non sono sorda, come credi, a tutti i tuoi sentimenti. Capisco quanto te che la nostra posizione di fronte al padre di Philip, questa e nessun'altra ragione, rende assurdo, rende falso per noi l'ostinarci nell'idea di un matrimonio. E ho rinunciato a pensare al suo amore. Ti sto dicendo la verità e non hai diritto di dubitarne. Ho mantenuto la parola che ti avevo data. E in me tu non hai mai scoperto nessuna falsità. Con Philip non solo non incoraggerei, ma eviterei prudentemente ogni rapporto ad altro ispirato che a una tranquilla amicizia. Puoi credermi incapace di serbare i miei propositi, ma almeno non devi trattarmi con quell'aspro disprezzo per errori che non ho commessi. Bene, Maggie, disse Tom, addolcendosi a questo richiamo. Non voglio aggravare le cose. Tutto considerato, ritengo che sarà meglio per te di vedere Philip Wakem se Lucy desidera che gli venga a casa sua. Credo a ciò che dici, o almeno so che ne sei convinta. Non posso fare altro che metterti in guardia. Desidero di essere per te un buon fratello, per quanto tu me lo permetterai. C'era un lieve tremito nella voce di Tom mentre pronunciava queste ultime parole, e il vigile affetto di Maggie risgorgò con ardore subitaneo, come quando erano bambini e mordevano insieme il loro dolce, come per un sacramento di riconciliazione. Si alzò e posò la mano sulla spalla di Tom. Caro Tom, lo so che tu vuoi essere buono, so che molto ti è toccato di patire e molto hai fatto. Vorrei esserti di conforto, non già affliggerti. Tu adesso non mi credi tanto cattiva, non è vero? Tom sorrise a quel volto inquieto. Quei sorrisi, quando comparivano, erano molto simpatici a vedersi perché gli occhi grigi sapevano essere teneri sotto la fronte corrugata. No, Maggie, posso diventare migliore di quanto tu supponi. Lo spero. Potrò venire un qualche giorno a farti il tè e a visitare quello scampolo di donna che è la moglie di Bob. Sì, ma ora va via, presto, perché non ho più tempo da perdere, disse Tom, guardando l'orologio. Nemmeno per darmi un bacio? Tom si chinò, per baciarla sulla guancia e poi disse: Ecco, sii una buona figliola. Ho da pensare a un sacco di cose quest'oggi. Nel pomeriggio devo avere una conversazione con zio Dian. Verrai domani da zia Glegg? Noi faremo tutti colazione molto presto in modo da essere là per il tè. Oh, devi venirci, Lucy mi ha pregato di dirtelo. Ah, oh, ho ben altro da fare, disse Tom, dando uno strattone al campanello e strappandone il sottile cordone. Mi fai paura, scappo, disse Maggie, facendo una ridente ritirata. Mentre Tom, con filosofia maschile, scagliò il cordone del campanello nel più lontano angolo della stanza, che non era però molto lontano. Particolare di esperienza reale, che toccherà il cuore di non pochi uomini, positivi o distinti, i quali un tempo, al primo gradino della loro carriera nel mondo, accarezzavano vaste speranze in camerette molto piccine. 5. Nel quale si mostra che Tom ha aperto l'ostrica. E ora che abbiamo messo a posto quest'affare di Newcastle, Tom, disse Mr. Dean in quello stesso pomeriggio, mentre sedevano insieme nel suo ufficio alla banca, c'è un altro argomento di cui voglio intrattenerti. Dal momento che nelle prossime settimane è probabile che dovrai fare un soggiorno piuttosto affumicato e spiacevole a Newcastle, hai bisogno di una qualche bella prospettiva che ti tenga sullo spirito. Tom attese con meno nervosismo di quello che aveva mostrato in una precedente occasione e in quello stesso ufficio, mentre lo zio estraeva la tabacchiera e gratificava con ponderata imparzialità ciascuna delle sue narici. «Vedi, Tom», disse finalmente Mr. Dean rovesciandosi sulla sedia, «il mondo ora avanza con passo più brillante di quando io ero un giovanotto, perché, signor mio, 40 anni fa, quando io ero un ragazzo grande e grosso come te, un uomo si aspettava di dover tirare la carretta per gli anni migliori della sua vita, prima di poter avere la frusta in mano. I telai marciavano adagio e le mode non cambiavano tanto in fretta. Io ho avuto un abito da festa che mi è durato per 6 anni. Tutto si svolgeva su scala più ridotta, signor mio. Intendo parlare delle spese. È stato il vapore a creare tutta la differenza. Fa girare tutte le ruote, compresa quella della fortuna, a passo raddoppiato, come ha detto il nostro Mr. Stephen Guest al pranzo di anniversario. Queste cose lui le afferra magnificamente per uno che non si è mai occupato di affari. Io non deploro il cambiamento come fa certa gente. Il commercio apre gli occhi agli uomini e se la popolazione ha da diventare troppo fitta sulla terra, come sta facendo, la gente deve esercitare la propria intelligenza nelle invenzioni più svariate. Io so di aver fatto la mia parte da semplice uomo d'affari. Qualcuno ha detto che è una bella cosa far nascere 2 spighe di grano dove non ne veniva che una. Ma, signor mio, è pure anche una bella cosa intensificare lo scambio delle merci e far giungere i chicchi di grano alle bocche affamate. È questo il nostro genere di affari. E io ritengo che il parteciparvi costituisca per un uomo la più onorevole delle posizioni. Tom capì che l'affare di cui zio Dian aveva da parlargli non era urgente. Lo zio era un uomo troppo accorto e pratico per concedere che i suoi ricordi o la sua presa di tabacco impedissero il progresso del commercio. In verità, da un mese o due Tom si sentiva giungere certi accenni che lo autorizzavano a sperare in qualche vantaggiosa proposta. Al principio di quest'ultimo discorso aveva allungato le gambe e cacciato le mani in tasca, preparandosi a qualche diffusa introduzione, intesa a dimostrare che Mr. Dean era uscito in grazia dei propri meriti. E ai giovanotti, in linea di massima, aveva da dire che, qualora non avessero successo, ciò dipendeva dai loro demeriti. Fu quindi parecchio sorpreso allorquando lo zio gli fece una domanda diretta. Vediamo, 7 anni sono passati da quando mi hai chiesto un impiego, eh, Tom? Sì, signore, ora ho 23 anni, disse Tom. Ah, è meglio che tu non lo dica, però, perché puoi passare per molto più maturo e l'età ha il suo peso negli affari. Mi rammento benissimo di quando sei venuto. Ricordo di aver visto che in te c'era dello slancio ed è stato quel che mi ha spinto a incoraggiarti. Sono lieto di dire che avevo ragione. È raro che io mi sia ingannato. Avevo naturalmente un po' di ritegno a spingere avanti un mio nipote, ma sono contento di dire che mi hai fatto onore e se avessi avuto un figliolo non mi sarebbe dispiaciuto di vedere che ti somigliasse. Mr. Dean diede un colpo sulla tabacchiera. E poi la riaprì, ripetendo con un certo sentimento: No, non mi sarebbe dispiaciuto di vedere che ti somigliasse. Sono molto lieto di avervi soddisfatto, signore. Mi ci sono messo del mio meglio, disse Tom, nel suo modo fiero e indipendente. Sì, Tom, sono contento di te. Non parlo della tua condotta come figlio, quantunque essa abbia il suo peso nella mia opinione sul tuo conto. Quelle che mi riguardano nella mia qualità di socio della nostra ditta. Sono le doti che hai dimostrate come uomo d'affari, brillanti affari, i nostri. Splendidi commerci, signor mio, e non c'è ragione che non debbano estendersi. Il capitale aumenta e di conseguenza anche le esportazioni. Ma c'è un altro elemento necessario alla prosperità di qualsiasi affare, grande o piccolo, e sono gli uomini che lo dirigono. Uomini di specchiati costumi. Non già i soliti tipi superficiali, ma gente sulla quale si possa contare. Ed ora ecco quel che Mr. Guest ed io vediamo ben chiaramente. 3 anni fa abbiamo fatto entrare Gell nell'azienda, dandogli una partecipazione nel frantoio. E perché? Ecco perché. Gell era tale uomo che i suoi servigi meritavano un premio. E così andrà sempre, signor mio. Così è andata per me. E quantunque Gell abbia circa una decina d'anni più di te, ci sono altri fattori. A tuo vantaggio. Tom cominciava a farsi un po' nervoso mentre Mr. Dean seguitava a parlare. Sentiva di dover dire qualcosa, gli girava la testa. Poteva anche non riuscire gradito allo zio, semplicemente perché si trattava di un'idea nuova, piuttosto che di un'accettazione delle proposte che gli prevedeva. È naturale, continuò Mr. Dean, quando ebbe fiutata un'altra presina, che il fatto d'essere mio nipote ridondi a tuo vantaggio, ma non nego che se anche tu non avessi avuto alcuna parentela con me, la tua opera nell'affare della banca Pelli avrebbe indotto Mr. Guest e me a farti avere qualche riconoscimento per il servizio che ci hai reso. Sicché, tenendo conto della tua condotta in genere e della tua abilità, ci siamo decisi ad offrirti una partecipazione negli affari. Partecipazione che saremo lieti di migliorare con l'andare del tempo.